visto. Non certi come cerchi di fumo nell'aria, sai non capisco. Volti umani amari raggiunti dal grido degli spari. Provare, cercare un modo per restare sani. Voglia di farcela, pensieri strani. Migliora di anno in anno chi non sa che non arriverà domani. Teorie complesse con sistemi per puntare in alto. Finiscono la corsa ad occhi aperti sull'asfalto. Perché essere forti? Quante persone forti adesso stanno morendo? Quanti sepolti? Leggo i volti di chi incontro e vedo lo sconforto. Paure di restare soli formano un rapporto. E vivere a un gusto diverso da dietro gli occhiali. Chi cerca di ingannare il tempo aziona le sue ali. Cerchi di fumo mi confondono. Fondono la luna, milioni di persone in fondo, ma ce ne torno solo qualcuna. Opinioni differenti, ma le cose sono sempre uguali. Niente stronzate, siamo tali e quali gli animali. Stesso destino, stessi istinti, stessa fregatura. E forse a loro la morte fa anche meno paura. Ti rendi conto dell'inutile che avvolge il mondo? Tutti impegnati a stare a galla, non andare a fondo. E anche lo sfondo ormai da anni non è più lo stesso. Che stiamo a fare tutti stretti dentro un cesso? Chi cerca di più ma non si muove. Chi sta in un angolo a tremare, mangia unghie mentre fuori piove. Chi vuole tutto si fa spazio e braccia larghe. Chi si è bruciato e guarda gli altri con il sangue. E io no, non ho una soluzione. Non voglio farti una lezione come altre persone. Mi baso su durezza drastica ed ostentazione. E la mia tecnica per chiudere chi sono dentro una canzone. Modi falsi sono tanti. Sentirsi vivi nonostante delusioni e pianti. E l'esistenza frivola che gioca le sue carte. Il traffico che non si ferma e se lo fa riparte. Cerco un modo per uscire da sta scatola. Che siamo come fumo, che il più furbo prima o poi evapora. Fanculo. I sapienti cosa dicono? Siamo forme evanescenti, concorrenti in un gioco ridicolo. Fumo, fumo, vedo solo fumo, solo fumo, solo fumo, vedo solo fumo, fumo, fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo vedo solo fumo, solo fumo, fumo, vedo solo fumo, solo fumo, solo fumo, vedo solo fumo, fumo, fumo. Solo fumo, solo fumo, solo fumo. Guarda, vedo solo fumo, solo fumo. Turanto lì nell'atrio dell'attesa. Ti fa paura che per alcune malattie non ci sia cura. Ma c'è di peggio della morte. La sfiga vera che spizza la lista per tirare a sorte. Che forse nomineranno anche il tuo nome due persone. Per non più di una generazione. O rimarrai per anni sacro per non più di una popolazione. Ma resterai pur sempre chiostro sopra i libri di qualche lezione. Ricorderanno solo ciò che hai fatto. Ma sarà fumo dei tuoi sforzi per essere corretto. Del tuo profumo, del tuo sguardo, della tua carezza. Sarà maceria dentro un sacco di mondezza. E tutto questo non ha senso. Per questo dentro gli occhi mi ci leggi solo vuoto immenso. Faremo prima ad ammazzarci in un parcheggio. L'uno contro l'altro. Adrenalina. Che la noia è peggio. Drogatevi di tutto e poi mettete i guanti. Un mega fight rave. Perché non ha senso essere santi. Perché il progresso ci ha portato sulla luna. Ma siamo sempre noi. Non è che ci abbia dato più fortuna. È tutta un'illusione per condire il pentolone. Ci siamo tutti dentro. Siamo milioni di persone. Bastardi ed occhi pesti che non lasciano la scia. Ma tutti come Gandhi. Solo un altro che va via. Solo fumo, solo fumo, solo fumo, vedo solo fumo, fumo, fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo vedo solo fumo, solo fumo, fumo, vedo solo fumo, solo fumo, solo fumo, vedo solo fumo, fumo, fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, guarda, vedo solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, fumo, fumo, fumo. Solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo, solo fumo